Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È dedicato a Don Milani, il priore di Barbiana, l'ultimo libro di Eraldo Affinati. Si intitola L'uomo del futuro, pubblicato da Mondadori ed era stato uno dei 5 finalisti del premio Strega di quest'anno, del 2016. Non è una biografia in senso stretto, piuttosto è un mix fra un romanzo, un saggio e un memoir. Questo perché Affinati è andato nei luoghi di Don Milani, ma ha anche riportato alcune esperienze in giro per il mondo, dove lui stesso Affinati ha incontrato delle persone che, in modo assolutamente inconsapevole, incarnano gli insegnamenti di Don Milani. Affinati parte dall'idea che Don Milani abbia sì fatto una rivoluzione nei metodi di insegnamento, ma abbia fatto soprattutto una rivoluzione dentro se stesso. Sentiamolo. Sì, nel senso che Don Lorenzo Milani proveniva da una famiglia molto ricca dal punto di vista culturale, prima ancora che economico, e quindi sin da bambino era il bambino privilegiato, e lui sin da piccolo sentì questa sua origine altolocata come una zavorra, come un'ingiustizia, come un qualcosa che lui, insomma, di cui lui doveva liberarsi. Infatti sin da piccolo avrebbe voluto far giocare a pallone all'interno delle ville di famiglia anche i figli dei bambini poveri, però il fattore gli diceva: no, tu sei il signorino, quindi non puoi fare questo. E invece Don Lorenzo sin da piccolo sentiva il senso dell'uguaglianza. A me ha colpito molto questo. Questa cosa è una cosa che sin da quando sono entrato in classe, io sono insegnante, insegno da 30 anni, insomma, negli istituti tecnici e professionali italiani. Io, siccome non ho avuto una formazione, diciamo, così avvantaggiata come invece ha avuto lui, sono rimasto colpito da questo, e quindi in questo mio libro ho cercato di raccontare questa vicenda di un grande italiano, ecco, io lo voglio definire così: scrittore, profeta, educatore, pedagogo. Ecco, Don Lorenzo davvero ti fa capire tante cose, e noi credo ne abbiamo molto bisogno nell'Italia di oggi. Uno dei punti fermi di Don Milani, che tu naturalmente, a cui tu fai riferimento in questo libro, è che nella scuola tutti dovevano avere lo stesso punto di partenza, diciamo, le stesse possibilità. Nella scuola di oggi, visto che tu sei insegnante, si può fare un ragionamento del genere, o significa non premiare la meritocrazia o la genialità di alcuni studenti rispetto ad altri? Cioè, come fai a portare avanti insieme tutti quanti in una classe molto eterogenea? Io da insegnante ho poche certezze, ma una sì: e le classi migliori sono quelle eterogenee, sono quelle composte da persone diverse. Se noi pensiamo ad una classe di secchioni, sarebbe tristissima, esattamente come una classe di soli ripetenti. Io ho scritto un libro intitolato Elogio del ripetente, per farvi capire anche, insomma, il mio desiderio di recuperare tutti. Però non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti, ma anche i forti hanno bisogno dei deboli. Detto questo, dobbiamo però dire che non stiamo parlando di ingegneri e di medici, i quali naturalmente vanno preparati, perché se un ingegnere sbaglia il calcolo e il ponte crolla, oppure un medico sbaglia la diagnosi e il malato muore, questo nessuno lo vuole. Noi stiamo parlando di sedicenni, di quattordicenni, stiamo parlando di Valerio che vuole entrare sempre in seconda ora, tu gli hai detto: guarda che non lo puoi fare perché ci sono 3 permessi al mese, e lui invece continua. Stiamo parlando di Romoletto che non ti ascolta. Quindi stiamo parlando di altre figure. Noi abbiamo in Italia una percentuale di abbandono scolastico pari al 30% nelle regioni meridionali nei primi 2 anni degli istituti professionali, una ferita enorme. Ecco perché Don Lorenzo ci può essere utile, ci può aiutare a non fare le parti uguali fra diseguali, sto usando le sue parole, ci può aiutare a capire che la scuola non è un ospedale che deve curare i sani, ma è un ospedale che deve curare i malati eventualmente. Purtroppo la scuola di oggi non sta andando in questa direzione, sta andando verso valutazioni di tipo oggettivo in stile Invalsi, insomma. Io sono, da insegnante, consapevole che noi dobbiamo verificare e certificare la qualità scolastica, però dobbiamo sapere che intanto la qualità scolastica è una nozione molto complessa, perché a volte una risposta giusta non significa che il ragazzo l'ha capita, una risposta sbagliata non significa che il ragazzo è un imbecille. Quindi è molto difficile, quindi dobbiamo trovare degli strumenti, secondo me, più sofisticati dei test Invalsi. Don Milani è stato un privilegiato sicuramente, appunto, famiglia benestante, culturalmente anche avanzata, voleva fare il pittore, gli avevano dato subito un atelier dove poteva, insomma, divertirsi in tutti i modi. In che momento si è accorto di essere un privilegiato? Perché tu dicevi già da bambino voleva far entrare gli altri a giocare a pallone nel campo da tennis, per esempio, però qual è stata la molla secondo te, avendo un po' seguito, letto tantissimo i suoi libri, seguito un po' le testimonianze, andando proprio nei luoghi della vita di Don Milani, che cos'è che gli è scattato e quando gli è scattato? C'è stata una progressione, non c'è stato secondo me un giorno di illuminazione sulla via di Damasco, no, c'è stata una serie di cose. Noi dobbiamo pensare ai mocassini bianchi immacolati, alla camicetta pulita con cui il piccolo Lorenzo scendeva a fare i bagni a Castiglioncello, e poi dopo dobbiamo pensare agli scarponi sporchi di fango con cui ha voluto essere sepolto a Barbiana. Allora, per arrivare dall'uno all'altro, insomma, c'è un percorso. Certo, ci sono stati degli snodi significativi, come quando in una cappellina sconsacrata di Montespertoli, nella villa padronale, scoprì un messale e scrisse a Oreste del Buono, poiché poi sarebbe diventato un grande scrittore, ma era stato un suo compagno di classe al liceo Berchet a Milano, disse: ma lo sai che la lettura di questo messale per me è più bella e più interessante dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Ecco, in quella lettera di Don Lorenzo si coglie già questo scarto che lo porterà verso la conversione. Certo, un cristianesimo però radicale, un cristianesimo che si spende completamente, che arriva, diciamo, ad una rivoluzione a quel punto non più solo dentro se stesso ma anche al di fuori, che ci chiama in causa, insomma, e che credo anche un non credente dovrebbe poter apprezzare. Ecco perché prima all'inizio dicevo abbiamo bisogno di figure come queste. Io da insegnante vedo tanti ragazzi e io so che sono spesso nel vuoto, sono ragazzi spesso privi di punti di riferimento. Una figura come Don Lorenzo, se giustamente ripresentata, ecco, in modo un po' narrativo, come ho fatto io con una serie di reportage in tutto il mondo, dall'India all'Africa, dalla Germania a Città del Messico, da Hiroshima, voglio dire, fino alle periferie italiane, secondo me può aiutare ad avvicinare un giovane e poi a scoprirlo meglio. Veniamo proprio alla struttura di questo libro, perché è un mix, abbiamo detto, fra romanzo, storia di Don Milani, tue esperienze personali in giro per il mondo, saggio e così via. Ci sono dei capitoli, dei brevi capitoli, in cui tu parli di persone che hai incontrato in tutto il mondo e che in qualche modo ti hanno dato la sensazione di essere l'incarnazione di alcuni dei messaggi di Don Milani. Li hai trovate un po' in tutto il mondo. In questa, come dire, carrellata di persone, diciamo personaggi, ma in realtà sono persone, cos'è che ti ha colpito? Tu dai l'idea di essere una persona molto empatica, di grande umanità e un grande osservatore dell'atteggiamento proprio umano. Che cosa ti ha colpito di queste persone e perché hai scelto queste persone da mettere nel libro? Mi ha colpito la felicità nei loro occhi. Nel momento in cui vedevo questo, capivo, mi sembrava quasi di vedere Don Milani. Faccio degli esempi concreti. A Benares, sul fiume Gange, ricordo alcuni bambini mi attorniarono e un inglese un po' sgrammaticato mi dissero che avrebbero voluto condurmi chissà dove, io non sapevo. Bussarono su una porticina e arrivò una suora di Madre Teresa di Calcutta, una giovanissima suora che mi guidò all'interno di questa stamberga dove lei accudiva quelli che noi potremmo definire i mostri umani, diciamo, quelli che noi metteremmo nel cottolengo, no? Lei li aiutava, però vedevo una felicità in questi occhi, la stessa felicità che ho visto nel maestro arabo in Marocco, dove due miei studenti della città dei ragazzi, ho insegnato per tanti anni lì, mi condussero, un imam cieco che aveva una forza potentissima, un maestro africano che mi mise in braccio suo figlio, il bambino, oppure un educatore berlinese con cui sono entrato in amicizia, che mi ha fatto giocare a pallone con un nazi skin. Essere nazi skin a Berlino è diverso che esserlo a Roma o a Milano. È molto bella quella parte, perché tu dici: questo ragazzo sta giocando contro di me in qualche modo, vi siete messi a giocare a pallone, no? E tu avevi la consapevolezza che lui era un emarginato in un certo senso, ma aveva anche una consapevolezza di sé molto, molto distorta. Sì, indubbiamente c'era un frantume dentro la sua esistenza che io percepivo, e come spesso mi capita da insegnante, perché spesso ho insegnato a questi ragazzi, cercavo di intercettare, e per fare questo ti devi scoprire, devi entrare nel loro mondo, devi fare in modo che loro ti vedano non come professore soltanto, anche come professore, ma come amico anche, quindi amico e maestro allo stesso tempo, proprio come faceva Don Lorenzo Milani, che però si feriva nel fare questo. Si faceva male, questo me l'ha insegnato anche Adele Corradi. Fra i tanti incontri mi piace citare questa professoressa ormai ultra novantenne, che devo dire per me è stato un incontro bellissimo quello che ho avuto con lei, mi ha fatto capire veramente chi era Don Lorenzo Milani. In che senso si feriva? Si feriva nel senso che quando tu educhi una persona, un giovane, naturalmente questo giovane ti pone ostacolo, si ribella, ti porta in un luogo che tu non prevedi. Allora tu, se accondiscendi sempre ai suoi desideri, lo fai felice sul momento, ma non lo formi davvero. Se tu invece ti confronti duramente con lui, quindi a costo di ferirti appunto, gli crei, diciamo, quel gioco dialettico, tesi, antitesi e sintesi, in mancanza del quale tu praticamente non diventi un vero uomo. Quindi l'adolescente ha bisogno anche di un nemico con cui confrontarsi, e tu come educatore non puoi dargliela sempre vinta. In questo romanzo, nelle parti in cui tu racconti di essere andato sui luoghi, no? Proprio hai ricostruito i luoghi di Don Milani, hai fatto una scelta stilistica ben precisa. Ti dai del tu. Tu ti rivolgi a te stesso come se fossi in uno specchio e racconti. Siccome le scelte stilistiche di uno scrittore non sono mai casuali, vorrei capire perché hai scelto questa forma narrativa, che è anche abbastanza insolita. È molto importante questa notazione, ti ringrazio. Diciamo che il libro è composto da 20 capitoli, ci sono 10 capitoli scritti in seconda persona, che sono quelli legati ai luoghi di Don Lorenzo, e altri 10 invece in prima persona, che diciamo parlano dei diari di viaggio intorno al mondo di cui abbiamo accennato. Quelli in seconda persona, quelli su Don Lorenzo, ho usato la seconda persona perché volevo farmi un esame di coscienza, quindi volevo scorporarmi da me stesso, quindi non la prima persona, però a corta distanza volevo restare. Se avessi usato una terza persona invece sarei stato più esterno. Invece, diciamo, è come se io mi fossi sdoppiato durante questi viaggi sulle tracce di Don Lorenzo e avessi creato una specie di processo mobile che io mi facevo, quindi mi mettevo alla prova. Poi alla fine questa domanda e questa risposta crea una dimensione dialogica, scenica, che secondo me fa bene diciamo al testo, perché io sono molto riflessivo come scrittore e quindi ho bisogno di crearmi uno spazio di riflessione, e per legittimare queste mie riflessioni ho avuto bisogno della seconda persona. E questo era Eraldo Affinati, che ci parlava del romanzo L'uomo del futuro, dedicato, come avete sentito, a Don Milani, pubblicato da Mondadori ed è stato uno dei 5 finalisti del premio Strega. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato, trovate queste e le altre puntate su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.